2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 10 maggio 2014, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Come sempre vi ricordo le coordinate per comunicare con noi: potete utilizzare la pagina Facebook del nostro programma oppure il nostro account Twitter cercando 2024, o naturalmente consigliamo sempre di utilizzare la nostra email se volete fare qualche considerazione che è più lunga dei 140 caratteri di Twitter o dei post normalmente non lunghissimi di Facebook. O certo, non esagerate, non abbiamo tutto questo tempo per leggere tutte le email, anche se cerchiamo di farlo ogni settimana. Di che cosa parleremo in questa puntata? Beh, una pagina piuttosto ampia, visto che manca circa un mese. Dico circa perché io non so quando inizieranno di precisi i mondiali, sono abbastanza disinteressato al mondo del calcio. Tuttavia più o meno a giugno ci saranno i mondiali di calcio, allora cercheremo di capire come si sta trasformando, e negli ultimi mesi si è trasformato moltissimo, il mercato dei televisori. È sempre più difficile andare in un negozio oppure comprare online un televisore, complicatissimo. Però, come sapete, c'è la campagna elettorale, il 25 di maggio si vota per le elezioni europee, e purtroppo pochi, mi verrebbe da dire nessuno, però pochissimi parlano di innovazione tecnologica, di rete a banda larga. Ci sono oramai dati verificabili e verificati in tutto il mondo che un investimento in un'infrastruttura in banda larga o in innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione o nelle aziende ha delle dirette conseguenze sulla competitività di un paese, cosa di cui parliamo spesso. Diciamo che dobbiamo aumentare la competitività del paese, ma non facciamo poi molto per raggiungere l'obiettivo. Tutto ciò, cioè l'investimento in tecnologia, ha anche dirette conseguenze sul prodotto interno lordo, e qui ci stiamo ad accapigliare per incrementare dello 0,1, dello 0,2%. Invece, investendo in un'infrastruttura, e l'abbiamo detto più volte, in banda larga, ma seriamente, non con le toppe e le pezze che si stanno facendo e stanno mettendo in questi anni, raggiungeremo degli obiettivi in modo molto, molto più semplice. Certo, non è facilissimo, ma sicuramente sarebbe una strada molto, molto opportuna. E purtroppo pochissimi sono i politici che ne parlano. Devo dire che molto pochi sono anche i politici che ci capiscono qualche cosa. Basta osservare quello che è successo in settimana con tutte le persone arrestate perché intercettate. Se uno ascoltasse normalmente 2024 saprebbe benissimo che ci sono mille altri sistemi di cifratura per nascondere le comunicazioni. Ma a proposito di competitività, tutto ciò non riguarda solo la politica ma il paese, perché proprio oggi il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato uno studio, una serie di considerazioni molto interessanti che riguardano anche l'Italia, dove c'è scritto: il costo del lavoro è sempre meno importante per la competitività globale delle imprese italiane. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, per essere più competitive le aziende devono sempre più sforzarsi in riforme per innovare, quindi c'entra anche in questo caso la tecnologia, ed espandere le dimensioni d'impresa. Espandere le dimensioni è più complicato, innovare investendo in tecnologia è un po' più semplice. Prima delle nostre digital news, alcune considerazioni su una riunione, un incontro informale che si terrà dal 13 al 16 maggio a Ginevra alle Nazioni Unite. Allora, si comincerà a discutere in seno alle Nazioni Unite, perché la discussione è già iniziata in altri ambiti, dei limiti da imporre ai robot militari autonomi in grado di uccidere. Ci sono numerosi studi, numerosi esperimenti in tutto il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, che ci dicono che ci stiamo avvicinando sempre di più ad un'era dove le macchine saranno anche in grado di decidere in modo autonomo quando e come uccidere. E il loro uso sarà all'inizio solo militare, ma naturalmente le domande che ci si fanno sono molte, complesse, riguardano appunto i limiti che l'uomo dovrà imporre a queste macchine, anche i principi sui quali queste macchine dovranno ragionare e prendere decisioni. È una discussione molto interessante, sicuramente anche molto complessa, che riguarda non solo l'ambito militare ma anche altri ambiti di automazione. Pensate ad esempio ai veicoli automatici che per molti anni dovranno essere presidiati dall'uomo, e molti esperti, anche molti addetti ai lavori che lavorano all'interno delle aziende automobilistiche, sono concordi, ne abbiamo parlato direttamente con loro in varie occasioni, nel ritenere che per parecchi anni ci saranno sistemi di assistenza alla guida molto evoluti, ma che dovranno comunque fare affidamento all'uomo per le decisioni di qualsiasi genere o comunque le decisioni dell'ultimo minuto. Quindi per parecchi anni, anche se la tecnologia è molto vicina ad offrirci veicoli che potrebbero procedere autonomamente, le leggi, soprattutto le leggi, non permetteranno che questo avvenga. Quindi per cambiare le leggi è necessaria una discussione molto approfondita su temi che sono piuttosto complessi. Però è importante sapere come ci si sta preparando questa era. Uno degli esempi che mi sono stati fatti almeno 3 volte negli ultimi mesi è una situazione estrema, pensando ad un veicolo automatico. Immaginiamo che un veicolo proceda su una strada e che sia effettivamente autonomo. Ad un certo punto ci sia un gruppo di bambini che attraversa la strada e che al lato della strada ci siano 2 burroni. Allora, che cosa fa l'auto in questo caso? In base a che cosa deve prendere decisioni? Investire i bambini che stanno attraversando la strada e proteggere i passeggeri, oppure evitare i bambini e finire giù nel burrone? Naturalmente la macchina sceglie in base a dei principi che l'uomo ha deciso di inserire nel sistema dell'automobile. Dunque, tra poco ci sono le nostre Digital News. Saluto Gianfranco Giardina, che è il direttore del magazine digitale dday.it. Ciao Gianfranco, bentornato. Grazie mille, bentornati a tutti gli ascoltatori. Dunque, noi oggi parleremo di non veicoli automatici ma di televisori, che però stanno diventando sempre più complicati. Cioè, io dico che effettivamente quando uno va in un negozio si trova piuttosto spaesato, perché ci sono delle complicazioni che poi se ne è aggiunta una anche ultimamente. Beh, se pensiamo che si tratta di prodotti che sono rivolti a 40 milioni di famiglie o comunque di abitazioni in Italia, e siamo di fronte a un prodotto molto complicato per la stragrande maggioranza degli utenti. Cioè, una volta era una cosa piuttosto semplice, oggi invece è una cosa piuttosto complicata. Oggi parleremo con Gianfranco Giardina di questo settore così popolare anche in Italia, per cercare di fare un po' di chiarezza. Adesso le nostre Digital News. Digital News. Secondo il Financial Times, la Apple starebbe negoziando l'acquisizione di Beats Electronics con una valutazione tripla rispetto alle attuali. Si parla di 3,2 miliardi di dollari, che la trasformerebbe nella più grande acquisizione della storia di Apple. Beats è nota soprattutto per la linea di cuffie audio, sono molto popolari soprattutto tra i giovani, e più recentemente per avere lanciato un servizio di musica in streaming in concorrenza con Spotify e Deezer e con tutti gli altri servizi di streaming. L'accordo dovrebbe essere annunciato la prossima settimana e servirebbe per rafforzare la posizione di Apple nel settore della musica. Digital News. C'è però un'altra notizia che riguarda Apple. Ari Partinen, il capo del progetto Pure View e della divisione Imaging di Nokia, che oramai è confluita in Microsoft, abbandona l'azienda e andrà a lavorare proprio alla Apple a Cupertino, in California. Digital News. Samsung ha sostituito il capo del design, nome coreano naturalmente poco facile da pronunciare, Chang Dong-won, con un più giovane Lee Ming-yung, il che potrebbe sfociare in un rinnovato design dei futuri Galaxy dopo le critiche all'S5, che sta vendendo bene, però diciamo che le critiche soprattutto al design sono state piuttosto accese, perché molti dicono è troppo simile ai precedenti modelli. Digital News. Cambiamo argomento. Il TAR del Lazio ha respinto i 2 ricorsi presentati da Telecom Italia contro 2 multe che sommate fanno quasi 104 milioni di euro multe inflitte dall'antitrust nel maggio del 2013 per abuso di posizione dominante nelle infrastrutture di rete. Telecom chiedeva l'annullamento o la riduzione della multa e ora annuncia ricorso al Consiglio di Stato. Tema molto importante, quello della net neutrality, la neutralità della rete. Negli Stati Uniti prosegue il dibattito sulla neutralità della rete, appunto, e sulla proposta che potrebbe essere votata il 15 maggio dalla Federal Communication Commission, che è la commissione che si occupa delle telecomunicazioni negli Stati Uniti, e che secondo molti osservatori ed esperti potrebbe mettere a rischio uno dei cardini su cui si basa la rete internet. Ora più di 50 venture capitalist hanno scritto una lettera esprimendo preoccupazione sulla proposta. Stessa cosa era stata fatta da un centinaio di aziende tecnologiche e poi ancora un altro centinaio, ma in questo caso di gruppi che difendono le libertà civili negli Stati Uniti, stanno manifestando in modo permanente, si sono proprio accampati davanti alla Federal Communication Commission e hanno scritto una lettera, oltre che ai commissari, anche a Barack Obama. L'operatore di telecomunicazioni giapponese NTT Docomo ha annunciato l'avvio di una collaborazione per definire, progettare e sperimentare le prime reti 5G. Oggi siamo ancora poco abituati al 4G e qui stanno già pensando al 5G. Allora, fanno parte del gruppo di studio Alcatel-Lucent, Ericsson, Fujitsu, NEC, Nokia, nella parte reti che è rimasta autonoma, e Samsung. Da notare che non c'è nessuna azienda cinese, quindi Huawei o le altre cinesi non ci sono. L'obiettivo è arrivare a velocità superiori ai 10 gigabit ed è probabile che i primi servizi verranno testati per i consumatori nel 2020, quando a Tokyo ci saranno le Olimpiadi. L'Unione Europea vorrebbe raggiungere entro il prossimo anno un accordo quadro sullo sviluppo delle tecnologie 5G in Europa. Ultima notizia riguarda la sanità e la tecnologia. Secondo i dati pubblicati questa settimana dall'osservatorio ICT in sanità della School of Management del Politecnico di Milano, la spesa complessiva per la digitalizzazione della sanità italiana nel 2013 si è purtroppo ridotta del 5% dopo il calo già registrato lo scorso anno, raggiungendo quota 1,17 miliardi di euro, appena l'1,1% della spesa sanitaria pubblica, pari a quasi 20 euro per abitante. Una contrazione che riguarda in particolare le strutture sanitarie, dove la spesa tecnologica è crollata dell'11% in un anno. Qualcuno potrebbe dire, beh, perché si sono abbassati i costi della tecnologia. Magari fosse solo per quello. C'è un calo perché si investe meno in questo settore, forse per i motivi che dicevo poco fa, accusando la politica e i politici che in campagna elettorale parlano troppo poco di innovazione tecnologica e di infrastrutture di rete, perché forse non si comprende, quando si fanno i budget, l'importanza della tecnologia. Anche qui siamo di fronte a un settore estremamente complesso che si trasforma molto velocemente e se uno non ha un minimo di competenza non riesce a capire quali sono le opportunità. È come uno scultore davanti a un sasso. Lo scultore ci vede la statua, io che non sono uno scultore ci vedo un sasso. Con la tecnologia è così, se un po' ci capisci vedi le opportunità, se non ci capisci nulla non riesci a cogliere le opportunità. Adesso, prima di una breve pausa, risaluto Gianfranco Giardina, che è rimasto paziente qui con noi. Dunque, Gianfranco, noi parleremo di TV, voi ve ne siete occupati tra l'altro in un nuovo sito internet, tra poco diciamo qualcosa anche del vostro nuovo sito internet dday.it, ma volevo partire accennando, poi lo diciamo in modo più approfondito, all'ultima complicazione che è stata aggiunta dal mercato, diciamo, quest'anno. Già l'anno scorso avevamo visto qualcosa, però diciamo che le TV curve, dopo che per ormai non so quanti anni il mercato ci ha abituato agli schermi piatti così belli, c'è questa ulteriore complicazione. Uno si deve domandare: ma compro la TV curva o la TV piatta? Cosa sono queste TV curve? Beh, sì, è una complicazione per chi non ascolta 2024, chi non legge D-Day. È un'opportunità in più per chi vuole scegliere un TV diverso. E basta capire che cos'è e a cosa serve. Beh, sono dei TV che sono stati curvati non più in senso convesso come vecchi tubi catodici, cioè con la bombatura rivolta verso lo spettatore, ma sono concavi, quindi la bombatura è dalla parte opposta dello spettatore, per avvolgere meglio, per avere un'immagine che meglio avvolga lo spettatore. Almeno questa è la ratio, e questa è la, esatto, poi dichiarata dai produttori. Poi ci sono tanti sì, se e tanti ma, esatto, esatto, questo tema. Riprendiamo questa puntata. Oggi Gianmarco Ferronato si occupa della parte tecnica. Vi ricordo che questa puntata, come tutte le nostre puntate, saranno disponibili poco dopo il termine del nostro programma, il sabato pomeriggio, nella versione podcast. Quindi vi consiglio, se non l'avete ancora fatto, di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. In questo modo potete avere e ricevere ogni settimana il file MP3 della nostra trasmissione. Ve lo portate in giro, molti sono i nostri ascoltatori e li saluto in modo particolare, che corrono, fanno sport, passeggiano per i parchi, i cittadini, per le campagne, per i boschi, ascoltando 2024, magari anche a pezzetti, 10 minuti ogni giorno. Dunque, allora Gianfranco, facciamo subito una panoramica su quello che offre oggi il mercato, visto che io ho detto che alcune cose sono cambiate rispetto ad un anno fa, un paio di anni fa. Effettivamente il televisore non è una cosa che si compra ogni anno, anche perché la spesa è abbastanza ingente, o devo dire che se poi la confrontiamo con gli smartphone costa poco un televisore. Ma assolutamente, esatto, sì, cioè però contando poi le dimensioni del, esatto, del, esatto, display, anche la tecnologia. Però è vero che sì, che l'approccio all'acquisto del TV è un po' diverso rispetto a quello dello smartphone. Lo smartphone magari si rinnova anche un po' più spesso. Il televisore ogni 10 anni, insomma. Motivo di più per investire qualcosa in più sul televisore, proprio perché dura molto di più. Esatto, esatto. Dunque, noi abbiamo dedichiamo questa puntata anche perché arrivano i mondiali. È vero che in occasione di questi eventi le vendite salgono un pochettino? O molto? Non so. Beh sì, che iniziano il 13 di giugno, così abbiamo anche detto. Ecco, perfetto. sì, è vero, normalmente è vero, nel mondo valgono molto anche i giochi olimpici, cioè quelli che ci sono di solito negli anni pari, ma sfasati rispetto ai mondiali di calcio. In Italia un po' meno, mentre i mondiali di calcio normalmente in Italia sono molto importanti. Non si è mai capito, nessuno è mai riuscito a dimostrarlo poi veramente, quanto l'influsso sia soltanto una spinta all'anticipo di una sostituzione, e quindi sia comunque un effetto effimero che poi magari si paga nell'anno successivo in termini di mercato, piuttosto che un effetto vero che non va a intaccare poi le vendite dell'anno successivo. Questo non nessuno ha mai dimostrato, ma di certo la stagione è una stagione importante, anche perché ci sono grandi promozioni correlate ai mondiali, sia promozioni che legate a dei concorsi, quindi che permettono magari di vincere o di pagarsi, quindi di farsi regalare di fatto il TV, sì, comperato, promozioni che danno dei bundle o promozioni semplicemente legate al prezzo, e quindi permettono di avere o dei buoni acquisto oppure degli sconti veri e propri sul prezzo. Quindi è un momento molto frizzante per il TV. Ok, questo sicuramente vale la pena citare queste promozioni, perché sicuramente in questo periodo i rivenditori cercano anche di risollevare le sorti, non so se addirittura dell'anno, comunque del periodo, della prima parte dell'anno, visto anche l'andamento del mercato. Stiamo parlando di un mercato in generale dell'elettronica di consumo, e forse a maggior ragione dei televisori, che sta soffrendo molto. Quindi probabilmente questa è anche un'occasione per gli addetti ai lavori di cercare di vendere qualche cosa in più. Comunque noi, quindi occhi aperti a tutti, sì, perché da adesso in poi direi che nel prossimo mese, oggi vedremo grandi offerte. Comunque devo dire, rispondendo anche ad alcuni messaggi che mi sono arrivati prima della trasmissione, che io personalmente, ma anche un po' lo scopo della trasmissione, sono interessato in modo particolare all'evoluzione della tecnologia per capire che cosa scegliere, perché comunque non tutte le tecnologie sono uguali e non necessariamente vogliamo dare dei consigli per gli acquisti. Io non sono interessato ad un televisore, ad esempio, però sono particolarmente interessato alle cose che ci stai per raccontare. Allora, cosa c'è sul mercato oggi? LED, LCD, plasma, OLED? Tutto quello che hai detto, però in fasi della loro maturazione molto, molto differenti. Se possiamo oggi dire che l'LCD è un prodotto oramai completamente maturo, e quindi mi viene anche da dire che anche in termini di prezzo ha raggiunto dei limiti inferiori almeno sui TV, diciamo, standard, difficilmente superabili verso il basso, ovviamente. E la tecnologia al plasma, oltre a essere assolutamente matura, direi che è quasi appassita. Appassita non in termini di qualità d'immagine, ma appassita in termini commerciali. Non garantisce i margini sufficienti per non garantisce i margini per quell'appiattimento dei prezzi che c'è stato in questi ultimi anni, l'abbassamento dei prezzi, e di conseguenza è stato largamente abbandonato. Se si pensa che anche il paladino del plasma di questi ultimi anni, cioè Panasonic, ha deciso nel 2014 di non lanciare più una linea di TV al plasma, questo è molto significativo per il plasma, perché Panasonic era l'ultima azienda che insisteva sul plasma proprio per la sua qualità, quindi faceva dei TV senza compromessi, diciamo così, o con pochissimi compromessi tecnologici, che ovviamente però non potevano avere dei prezzi super aggressivi. Il plasma invece si è schiacciato oramai in una fascia di prezzo di chi vuole lo schermo molto grande e molto economico, e quindi con anche schermi con prestazioni non eccellenti. Molti appassionati sono alla caccia degli ultimi esemplari, per esempio della serie VT di Panasonic, ancora presenti sul mercato. La serie VT è una serie 2013, non 2014, con i TV che stanno arrivando sul mercato in questo momento verrà completamente sostituita e non più sostituita da LCD. Sostituita da una gamma Panasonic che è completamente composta da TV LCD quest'anno. Sì. Allora ricordiamo agli ascoltatori che si sono distratti negli ultimi ormai anni, perché noi lo diciamo da anni, e anch'io l'ho imparato qualche anno fa, l'LCD, cioè i LED sono LCD a retroilluminazione LED. Neanche più retroilluminazione, visto che quasi non esistono più i TV con la retroilluminazione, un'illuminazione laterale distribuita da dei vetri molto sofisticati che distribuiscono questa luce. Le barre LED sono messe sul lato dello schermo, anche perché sennò lo schermo non potrebbe essere così sottile com'è, e questa retroilluminazione, ahimè, non è precisamente il meglio che si possa ottenere, perché per quanto i vetri siano assolutamente sofisticati, l'uniformità di questi TV spesso paga pegno, e quindi vediamo dei TV che, se li guardiamo in alcuni frangenti o se li misuriamo con gli strumenti, hanno magari dei bordi più luminosi rispetto al centro o viceversa. Certo. Poi vale la regola, ma questa vale per tutte le tipologie di prodotti, addirittura non solo nei televisori, che certamente un prodotto di alta qualità che costa molto rispetto al prodotto di bassa qualità naturalmente non ha questi problemi, o comunque ha questi problemi molto molto molto ridotti. Ecco il problema, che non si capisce se guardiamo soltanto il cartellino prezzo. Certo. Se noi guardiamo un cartellino prezzo di un TV oggi, troveremo 4 prese HDMI, 3 prese USB, Full HD 1920x1080, Smart TV, presa di rete, chi più ne ha più ne metta, saranno più o meno tutti uguali, sia partendo dall'entry level fino al top di gamma. Quindi le caratteristiche tecniche lette sul cartellino prezzo non rendono giustizia al TV, e quindi cosa fanno? Spingono verso un acquisto di basso prezzo. Noi non abbiamo alcun interesse a spingere i nostri ascoltatori o i nostri lettori di idee verso un acquisto di un prodotto di alto prezzo, ma verso un buon acquisto, un buon TV. Ecco, le caratteristiche che rendono un TV migliore di un altro non sono scritte sul cartellino prezzo. E allora cercheremo di farcele dire queste caratteristiche. Un consiglio, quindi tu mi confermi che, anch'io sono un grande tifoso del plasma, ci confermi che se uno trova in giro ancora plasma Panasonic che aveva acquistato Pioneer, quindi tutta una tecnologia molto evoluta, può essere una buona occasione? Se uno trova dei top di gamma, perché anche Panasonic aveva dei plasma entry level non così entusiasmanti, dei top di gamma Panasonic, che praticamente, essendo mai prodotti fuori mercato, magari riesce a trovare anche un prezzo molto conveniente, secondo me sono un buon acquisto. È innegabile dire che siano un buon acquisto, anche se è una tecnologia che non viene più prodotta o che non verrà più prodotta. Gli altri produttori che producono plasma esistono ancora? Sì, esistono, sono fondamentalmente Samsung e LG. Samsung solo proprio per una fascia entry level, addirittura i TV plasma di Samsung non sono smart TV, quindi non vengono neanche catalogati come smart TV, una semplificazione dell'offerta. LG invece ha ancora dei plasma, devo dire un pochino più alto di gamma rispetto a quelli di Samsung, ma sempre residuali nell'offerta rispetto all'offerta principale, preponderante, LED, che è quella dell'LCD retroilluminata LED. Sì. Dunque, a questo punto ti faccio la domanda che molti si fanno. Gli OLED, visto che se ne parla da molto tempo e qualcosa sta uscendo sul mercato. Gli OLED sono il motivo vero per cui possiamo sopportare, da amanti della qualità, il fatto che il plasma declini e sparisca. Sì. Perché la qualità dell'immagine in TV OLED non ha paragoni né nel plasma né nell'LCD e neanche nel tubo catodico. È una qualità d'immagine che anche in queste primissime generazioni di TV che sono in circolazione adesso è assolutamente superiore, come molto superiore è il prezzo di questi pannelli, di questi TV. Quindi è chiaro che chi volesse accedere all'OLED adesso deve pagare pegno, come tutti gli early adopters, quindi quelli che comprano per primi le tecnologie, e pagare questo pegno significa anche portarsi in casa un prodotto che dà sicuramente sin da subito un vantaggio d'immagine. Quindi il grosso vantaggio è che non c'è bisogno di altri prerequisiti, non c'è bisogno di software particolare, non c'è bisogno di trasmissioni specifiche. Con una buona trasmissione o con un Blu-ray si vede meravigliosamente sin da subito. Lo svantaggio è che è una tecnologia molto nuova e quindi probabilmente chi compra oggi deve già sapere che se comprerà domani risparmierà un po'. Ecco, sì, siamo però ancora nella fase dove la curva di prezzo è discendente piuttosto. Eh sì, se pensiamo che l'OLED 55 pollici è entrato sul mercato pochi mesi fa intorno agli 8.000 euro e veleggia adesso a 4.000 euro, quindi si è dimezzato in pochi mesi, questo fa capire che dinamiche ci sono in atto. Sono dinamiche commerciali sicuramente, ma anche di economie di scala. Man mano che I TV OLED vengono venduti sui mercati internazionali, migliora l'efficienza produttiva, migliora anche l'efficacia produttiva, cioè gli scarti si riducono e di conseguenza il prezzo scende. È sicuro che il prezzo scenderà ancora nei prossimi mesi. E qui la differenza: non c'è mai un momento buono per comprare una tecnologia che non sia super matura. E l'unico momento buono per comprare una tecnologia è poco prima della sua estinzione. E questo è comunque una legge che abbiamo già visto e sperimentato negli anni. Che orecchie per intendere intenda. Ecco. Ma quindi a questo punto, visto che diciamo uno dei motivi per cui abbiamo fatto la trasmissione è che il 13 di giugno ci sono i mondiali, se uno dovesse acquistare oggi, tu sconsigli l'LCD LED? No, nella maniera più assoluta. Allora, il dobbiamo dividere in due il problema. Se uno acquista veramente per i mondiali, non è che serva granché. È una visione, mi permetto di dire, un po' pecoreccia, cioè grande e bello e basta. Serve un grande schermo per vedere grande. Perché? Perché diventa anche un fatto sociale. La partita dei mondiali si vede con tanti amici. Mi verrebbe anche da dire: tirate fuori dall'armadio i vostri proiettori, perché magari la partita è bella anche vederla sul grande schermo. Questo sul è un'altra grandissimo puntata. Schermo, è un'altra puntata. Però se parliamo di TV, è chiaro che uno dice: per i mondiali scelgo un TV grande, e allora vado sui tagli che incominciano a essere disponibili anche a prezzi abbordabili, 65 pollici, 75 pollici, e quindi tagli molto importanti. Riprendiamo questa puntata, stiamo parlando di televisori, un mondo, un mercato sempre più complesso. Ne stiamo parlando con Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it. Dunque Gianfranco, non abbiamo detto nulla, io ho fatto un tweet qualche settimana fa, ma non abbiamo detto nulla sul vostro nuovo sito internet, che un ascoltatore che è anche lettore su internet può credere che mandare online un nuovo sito internet sia una passeggiata, invece dietro c'è un lavoro di mesi, settimane. Mesi, soprattutto per salvare tutti i 15.000 articoli che avevamo in archivio. E quindi non è un lavoro banale utilizzare tutte le ultime tecnologie di sviluppo che abbiamo utilizzato. Cosa c'è di nuovo nel sito? Oltre agli articoli, diciamo. Non c'è più un bit di quello vecchio, c'è quindi al di là di quello che si vede, quindi della veste grafica, c'è tutto uno studio per poter offrire dei contenuti con immagini sia fisse che in movimento molto più grandi, e quindi è ottimizzato anche per schermi più grandi. Ci sono nuove forme di contenuto, un forum completamente riscritto e molto, molto più potente, anche maggiore velocità per noi di caricamento dei contenuti, e quindi questo vuol dire anche ancora maggiore tempestività nel dare notizie. Quando ci sono gli eventi, che uno fa un po' di foto, prova i prodotti e le manda online. Quindi poi ognuno potrà sperimentare vedendo dday.it, digitalday.it, quindi dday.it è l'abbreviazione, sì, più facile. Dunque, abbiamo detto una cosa molto importante, sono le dimensioni del televisore. Anzi, la prima cosa da fare sarebbe scegliere le dimensioni, e uno potrebbe dire, almeno tu dici spesso questo e ti chiedo perché, meglio comprare il TV grande. No, meglio comprare il TV più grande possibile, compatibilmente con lo spazio dove uno deve ambientarlo, sì, e compatibilmente anche col portafoglio, perché chiaramente più certo, grande è, più costa. Perché questo? Perché il TV grande non deve spaventare. Una volta, molti invece si spaventano. Molti si spaventano. È incredibile. Una volta si diceva stai lontano dal TV perché fa male agli occhi. Poteva essere vero forse per il tubo catodico, non è sicuramente vero per i nuovi pannelli digitali. E quindi più grande è, meglio è, tanto più che col Full HD, non parliamo addirittura di 4K, le distanze di visione consigliate sono assolutamente ridotte, quindi addirittura due volte la larghezza dello schermo. Un 46 pollici, tanto per fare un esempio, è largo un metro. Vuol dire che un 46 pollici andrebbe visto da 2 metri di distanza, e così via a crescere. Una visione normale in un salotto a 3, 4 metri, a volte anche 5. Ecco, a queste distanze il limite è la tecnologia, non è più la dimensione dello schermo. Bisogna scegliere il TV più grande possibile. Quindi 3 metri, cioè se io ho il divano a 3 metri, cioè una, più o meno una stanza comune di una casa italiana, se ho il divano a 2 metri e mezzo, 3 metri dal televisore, 55-60 pollici addirittura. Assolutamente sì. Benissimo. Ma, cioè proprio, ma uno vede bene e legge bene. Perché dico legge? Perché adesso le trasmissioni televisive con la computer graphic sono sempre più da leggere. Quante volte ci troviamo anche di fronte alle trasmissioni, ma non so, i talk show politici anche, no? In cui vengono continuamente mostrati i cartelli, le statistiche, dico i risultati per esempio dei sondaggi o i risultati delle elezioni, per esempio ci saranno a breve. La televisione sempre più si legge, e quindi bisogna garantire una buona leggibilità per non affaticare la vista. Quindi è vero piuttosto il contrario, il TV piccolo fa male agli occhi, il TV grande non fa male agli occhi. Dunque, piatto o curvo? A questo punto faccio subito la domanda. Allora, piatto o curvo, diciamo che i curvi sono ancora molto pochi, ce li ha soltanto Samsung negli LCD e LG nell'OLED. Curve sono molto più belli da vedere probabilmente. Ma non piacciono neanche un po', però. Ma io adesso poi alla fine noi non potremo decidere noi qui se sono veramente più belli, è il mercato che lo decide come sempre. Certo. Però sono sicuramente nuovi in un mercato dove gli addetti alle vendite spesso scarseggiano nei reparti, è difficile farsi dare la giusta assistenza o l'assistenza che sarebbe giusto avere per un acquisto che si fa una volta ogni 10 anni, ecco, diciamo così. Il TV curvo parla da solo, racconta una storia nuova, e racconta una storia di un TV, di uno schermo che sembra più un foglio di carta, perché questo fatto che è curvo, lasciamo stare che poi è curvo ma rigido, non è flessibile, però questa forma curva dà l'idea veramente di leggerezza, molto più di quanto non faccia uno schermo magari sottilissimo ma con un layout piatto. Quindi sicuramente se un acquirente va in negozio, non riesce a parlare con nessuno o non vuole parlare con nessuno, perché molti clienti proprio fuggono anche il commesso, preferiscono scegliere da sé, ecco, il TV curvo dice da solo: ehi, guarda che io sono diverso dagli altri. Okay. Ecco, questo è il suo punto forte. Sono più nuovo, quindi appaio anche più questo è sicuramente più alla moda, diciamo forte, così. Ecco, il punto debole è che probabilmente uno schermo curvo non serve. Nel senso che secondo chi lo propone sarebbe più avvolgente, più tutto, però attenzione, è avvolgente se si sta perfettamente nel mezzo, se no, se si è leggermente laterali, aumenta le distorsioni geometriche che già il decentramento mette, certo. Ma se le deformazioni geometriche, se sono leggermente laterali, sono almeno lineari, invece di vedere un rettangolo vedo un rombo, ecco, diciamo così, in questo caso vedo un foglio curvo e lo vedrò probabilmente sì, sì. Peggio. È vero che costano anche un po' di più? Costano anche notevolmente di più per due motivi. Uno, perché costano un po' di più delle loro controparti piatte, tanto per intenderci sono differenziali che vanno dai 200 ai 400 500 euro a seconda della dimensione. Questo è un motivo di marketing, nel senso che sono un po' più nuovi, allora te li faccio pagare un po' di più, o tecnici? Potremmo dire che un mix delle due cose, tenendo conto che produrre su una scala nettamente più ridotta i TV curvi, i pannelli curvi costano un po' di più, ha un certo. costo più alto, okay. Questo sicuramente. E poi c'è proprio anche un motivo tecnologico, cioè l'LCD nasce sicuramente planare. Se è piano viene tagliato ed il lavoro è finito, tanto per intenderci. Se è curvo deve essere tagliato e poi curvato, quindi c'è una lavorazione in più. Ecco, questo a giustificazione almeno parziale della differenza di prezzo. Bisogna vedere se questa differenza di prezzo mi va riconosciuta oppure no. Qualcuno dice che sono anche più difficili da ambientare a parete, però è vero che quelli che sono messi a parete sono una percentuale molto ridotta dei TV acquistati, sì. Gli altri sono d'appoggio. Diciamo che ci vorrebbe la parete curva. Ci vorrebbe la parete curva. come ha scritto Roberto Pezzali su D-Day.it, se la potrebbero godere a parete solo quelli che abitano negli igloo, nei trulli. Sì, una battuta però. Vabbè. Però... con noi Gianfranco Giardini, il direttore del magazine digitale D-Day.it, tutto nuovo da pochi giorni. Dunque Gianfranco, Full HD o 4K? Cioè, vale la pena spendere più soldi per acquistare un televisore Ultra HD che è 4 volte la definizione dell'HD, dell'alta definizione? Varrebbe sicuramente la pena se avessimo contenuti in 4K, quindi contenuti in questa risoluzione. Oggi l'utilizzo contenuti 4K, vuol dire o trasmissioni oppure supporti, dischi, o film o streaming, tutto quello che vuoi. Non esistono praticamente. Quasi nulla. Esistono qualche file disponibile su internet. Abbiamo fatto un articolo proprio su questo per dire quali sono i filmati 4K che si possono scaricare liberamente. Abbiamo visto proprio 3-4 giorni fa un esempio di streaming 4K di un evento in diretta, e quindi il Nabucco fatto all'Opera di Vienna e diffuso via streaming in 4K dall'Opera di Vienna, molto sperimentale, una sola camera, impossibilità di avere una regia, quindi sicuramente grande taglio, ma siamo proprio nel mondo delle prime sperimentazioni. I TV invece incominciano ad essere diffusi. La ratio di un TV 4K oggi sarebbe quello di vedere dei contenuti Full HD, come viene detto nel termine orrendo ma tecnico, upscalati, cioè scalati all'insù, riscalati alla risoluzione 4K, il che può aggiungere, se questo upscaling è fatto bene, qualche miglioria di visione, ma a due condizioni: uno, che sia fatto assolutamente bene; due, che lo schermo sia molto grande. Oppure che la visione sia molto ravvicinata. Sì, oppure perché... che uno debba vedere delle fotografie, ecco, solo. Ecco, il mondo della fotografia è quello che veramente beneficia, sì, del 4K, sì. Perché oggi, a parte i TV 4K, non esiste un altro sistema per vedere le fotografie a più di 2 megapixel. Cioè, quando voi si vedono su PC alle normali risoluzioni dei PC, stiamo parlando di un qualche cosa che assomiglia al Full HD, e quindi 2 megapixel. Le foto magari vengono scattate a 10, 12, 15, 20 megapixel, quindi non servono a niente, diciamo, quindi, uno le guarda a quella risoluzione solo se ne ingrandisce, sì, sì, ecco, sì. Su TV Ultra HD, quindi 4K, il fotoamatore può vedere le sue foto a 8 megapixel, che non sono magari tutti i megapixel dell'immagine, ma sono molti. Però vedere in casa una bella foto, certo, è un bello spettacolo. È un ragionamento che vale solo per i fotoamatori, sì, non per gli altri. Perfetto, quindi per il momento aspettare, così come aspettare potremmo dire... Ma aspettare, allora, è tutto legato alla possibilità di spesa. Considerando che un TV non si compra tutti gli anni... Certo, uno dice non si è prepara, un cellulare. Sì, però, uno lo compra oggi per un domani, per un futuro. Devo dire che sul fronte del 4K il futuro non è chiaro. Cioè non è chiaro quando arriveranno le trasmissioni, non è chiaro quando ci sarà streaming, se ci sarà streaming, non è chiaro se la rete italiana riuscirà a reggere decorosamente uno streaming. Aspettate tranquillamente, perché se guardiamo l'evoluzione dell'HD, soprattutto sul digitale terrestre, come si dice in alcuni casi, campa cavallo. Diciamo così, no. Dovendo spendere qualche soldo, io preferirei avere un Full HD OLED oggi, lo godo sin da subito, me lo godo sin da subito, che magari a pari spesa un 4K LCD. Sì. Senti, visto che fra poco dobbiamo salutare i nostri ascoltatori, un consiglio che noi diamo, ricordando anche che quando uno va in negozio vede un'immagine che non è quella vera, perché c'è un'impostazione che viene fatta solo ed esclusivamente per la visione nel negozio, quindi non fate troppo affidamento, diciamo, a quell'immagine. Effettivamente questo è un problema molto serio. Tu dai sempre un consiglio di disinserire tutti i filtri che ci sono inseriti nella TV quando la portiamo a casa. Sì, o buona parte dei filtri, cioè anche quando il TV viene disimballato e messo a casa e alla prima installazione viene chiesto se è per un'installazione domestica o per il negozio, e l'utente sceglie domestica, quindi non va sull'impostazione del negozio di cui tu parlavi prima, queste impostazioni quasi sempre sono molto meno che ottimali, in alcuni casi sono disastrose proprio per la qualità dell'immagine, perché inseriscono tutti questi filtri che fanno parte un po' del marketing della novità, ma non sempre garantiscono immagini migliori, sì. A volte introducono anche degli artefatti pazzeschi, quindi a seconda dei TV bisogna capire cosa disinserire. Una buona regola è quella di disinserire, almeno provare a farlo e guardare l'immagine, i filtri digitali, soprattutto quelli di motion compensation, quindi quelli di correzione e della fluidità del movimento. Per avere un'immagine più fluida, in realtà introducono degli artefatti inaccettabili, sì, oppure sì. Fanno quell'effetto un po' plasticoso, mi si permette di dire, un po' telenovela, un po' come il loudness. Negli impianti un po' come hi-fi. Il loudness negli impianti hi-fi. Io sono un utente di car sharing, e devo dire che purtroppo, qui devo dire che c'è un sacco di gente ignorante, trovo le autoradio con loudness. Allora io vado, spengo, tolgo tutto, metto tutto a zero, però vabbè. Dunque, come sempre, grazie ai nostri ascoltatori principalmente, ma i nostri ascoltatori non ci devono abbandonare perché la trasmissione dura ancora per qualche minuto. Grazie a Gianfranco Giardina che è stato con noi. Con il rimpianto di avere ancora 100 cose da dire, dette, ma ci possiamo trovare a breve quando la tua voce si sarà ristabilita e ristrutturata. Anche meglio. Sì, infatti. Bene, nel frattempo andate a visitare Gianfranco Giardina su dday.it. Ciao Gianfranco, a presto. Grazie mille. Adesso io saluto Pierangelo Soldavini che arriva dalla redazione di Nova Il Sole 24 Ore. Pierangelo, bentornato. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo dalla copertina. Che cosa l'avete dedicata domani? Dunque, partiamo da un tema che ovviamente è caldo in questi giorni più che mai, il lavoro, ma lo vediamo un po' dal nostro punto di vista, per cui il lavoro in prospettiva, il futuro del lavoro. Allora, vediamo nell'arco di un periodo di crisi, vediamo la tecnologia come un nemico che può portar via dei posti di lavoro. In prospettiva la tecnologia, soprattutto nei paesi sviluppati, porterà dei posti di lavoro e dell'occupazione. È chiaro che tutti quelli che fanno le analisi, appunto, di quanto la robotica, l'informatica, i droni potranno creare delle opportunità, è chiaro che ragionano poi sul lungo periodo. C'è quel gap di breve periodo che invece della transizione, dove ovviamente si vede soltanto il posto di lavoro portato via dalla tecnologia, e quindi c'è questa difficoltà. Però insomma, cerchiamo anche in questo ambito di trovare laddove internet può creare delle reti che creano lavoro, per cui delle esperienze di persone che si sono reinventate una vita attraverso internet, oppure nuovi sistemi per matchare, per far combaciare domanda e offerta di lavoro. Sì. Così, sì, questo è un tema molto importante, anche perché troppo spesso viene messo in evidenza l'aspetto negativo di questa evoluzione tecnologica, che effettivamente in alcuni ambiti porta via posti di lavoro, ma del resto la tecnologia ce lo ha insegnato nella storia. cioè esiste una nuova tecnologia, nasce una nuova tecnologia, si sviluppa una nuova tecnologia e molti lavori vengono distrutti, però poi se ne possono creare degli altri, anzi forse proprio guardando alle opportunità che la tecnologia mette a disposizione che una nazione può creare dei nuovi posti di lavoro. Sì, è chiaro che siamo in quella fase di mezzo proprio dove si vede soltanto la parte negativa, perché ovviamente c'è anche la crisi, quindi sì, le cose i posti sono di lavoro sono peggiorate, sono esatto, meno di prima. Dunque, poi di che cosa vi poi nel paginone parliamo di un argomento abbastanza, come dire, hard per tecnologi duri e puri, però insomma cerchiamo di farlo in maniera abbastanza leggera e divulgativa come sempre. Parliamo di linguaggi informatici, per cui tutte quei linguaggi che permettono, quei codici che permettono di scrivere i software che sono la base di tutta l'informatica, di tutto il computing, di tutte le applicazioni. Sì, così. A proposito anche di posti di lavoro. A proposito di posti di lavoro, dove facciamo parlare anche gli sviluppatori, che sono quelli che appunto utilizzano questi codici per creare qualcosa di nuovo. Bene, Pierangelo, grazie, a presto, buon lavoro. Grazie a voi. Noi chiudiamo questa puntata di 2024, naturalmente i nostri ascoltatori ci scrivono sulle nostre pagine Facebook, su Twitter e ci sollecitano altri dettagli sul mondo dei televisori, perché effettivamente ci sono tante cose che avremmo voluto dire. Cito le prime due che avevamo messo in scaletta, che sono il sintonizzatore DVB-T2, visto che c'è anche una legge che lo prevede, ma quella legge è piena di mancanze, chiamiamole così, che è un ossimoro, capisco, piena di mancanze, però ci sono molti buchi che andrebbero coperti. E poi anche volevamo parlare di dual tuner, che è una delle novità su alcuni prodotti lanciati recentemente, ma torneremo presto su questo argomento. È tutto per questa puntata di 2024, io sono Enrico Paglierini, grazie ad Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana. Continuate a scriverci a 2024@radio24.it. vi consiglio come sempre di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast della nostra trasmissione, naturalmente trovate tutte le informazioni sul nostro sito internet, oppure scriveteci una bella email 2024@radio24.it. ancora un ringraziamento, appuntamento alla prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.